Il tornado dispone di 9.000 joule di energia e il viaggio durerà un'ora e mezza. Quanta energia dovete consumare ogni minuto affinché il tornado si esaurisca esattamente al termine del viaggio e non oltre?